Cari fratelli e sorelle, la catechesi del mercoledì scorso era dedicata alla grande figura di origine, dottore Alessandrino, del secondo al terzo secolo. In questa catechesi del mercoledì scorso abbiamo preso in considerazione la vita e la produzione letteraria di questo grande maestro Alessandrino, e abbiamo individuato nella triplice lettura della Bibbia da lui condotta il nucleo animatore di tutta la sua opera. Ho lasciato da parte, per riprenderli oggi, due aspetti della dottrina origeniana che considero tra i più importanti e attuali. Intendo parlare dei suoi insegnamenti sulla preghiera e sulla Chiesa. Origene è autore di un importante e sempre attuale trattato sulla preghiera e intreccia costantemente la sua produzione esegetica e teologica con esperienze e suggerimenti relativi all'orazione. Con tutta l'esercizio teologica del pensiero che c'è, non è mai una trattazione puramente accademica, ma è sempre fondata sulla esperienza della preghiera, del contatto con Dio. A suo parere, infatti, l'intelligenza delle scritture richiede, più ancora che lo studio, l'intimità con Cristo e la preghiera. E se è vero che Cristo è il vero ultimo autore con lo Spirito Santo della Scrittura, è anche evidente che solo in un contatto vivo con Cristo si può comprendere la Scrittura. Origene è convinto che la via privilegiata per conoscere Dio è l'amore, e che non si dia un'autentica scienza a Cristo senza innamorarsi di Lui. Nella lettera a Gregorio, Origene raccomanda, cito, «Dedicati alla lezione delle Divine Scritture, applicati a questo con perseveranza, impegnati nella lezione con l'intenzione di credere e di piacere Dio. Se durante la lezione ti trovi davanti a una porta chiusa, bussa, e te l'aprirà quel custode del quale Gesù ha detto, il guardiano gliela aprirà. Applicandoti così alla lezione divina, cerca con lealtà e fiducia incrollabile in Dio il senso delle sacre scritture divine, che in esse si cela con grande ampiezza. Non ti devi però accontentare di bussare, di cercare. Per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l'oratio, la preghiera. Proprio per esortarci ad essa, il Salvatore ci ha detto non soltanto cercate e troverete, e bussate, vi sarà aperto, ma ha aggiunto chiedete e riceverete. Balza subito agli occhi il ruolo primordiale svolto da Origene nella storia della lezione divina. Il vescovo Ambrogio di Milano, che imparerà a leggere le scritture dalle opere di Origene, la introduce poi in Occidente, per consegnarla ad Agostino e alla tradizione monastica successiva. Come già avevo detto, il più alto livello della conoscenza di Dio secondo Origene scaturisce dall'amore, e così anche tra gli uomini uno conosce realmente in profondità un altro solo se c'è amore, se si aprono i cuori. Per dimostrare questo, egli si fonda su un significato dato talvolta al verbo conoscere in ebraico, quando cioè viene utilizzato questo verbo per conoscere per esprimere l'atto dell'amore umano. Così leggiamo nella Genesi: Adamo conobbe Eva, sua sposa, la quale concepì. Così viene suggerito che l'unione nell'amore procura la conoscenza più autentica. Come l'uomo e la donna sono due in una sola carne, così Dio e il credente diventano due in uno stesso spirito. In questo modo la preghiera dell'Alessandrino approda ai livelli più alti della mistica, come attestato dalle sue omelie sul Cantico dei Cantici. Viene a proposito un passaggio della prima omelia dove Origene confessa, cito: «Spesso, Dio me ne è testimone, ho sentito che lo sposo si accostava a me in massimo grado. Dopo, egli se ne andava all'improvviso, io non potei trovare quello che cercavo. Nuovamente mi prende il desiderio della sua venuta e talvolta egli torna. E quando mi è apparso, quando lo tengo tra le mani, ecco, ancora mi sfugge e una volta che è svanito mi metto ancora a cercarlo». Torno qui alla mente ciò che il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II scriveva da autentico testimone nella Nuovo Millennio in Iunte, là dove egli mostrava ai fedeli come la preghiera possa progredire quale vero e proprio dialogo d'amore fino a rendere la persona umana totalmente posseduta dall'amato divino, vibrante al tocco dello Spirito, filialmente abbandonata nel cuore del Padre. Si tratta, proseguiva Giovanni Paolo II, di un cammino interamente sostenuto dalla grazia, che chiede tuttavia forte impegno spirituale e conosce anche dolorose purificazioni, ma che approda in diverse forme possibili all'indicibile gioia vissuta dai mistici come unione sponsale. Veniamo infine a un insegnamento di origine sulla Chiesa e precisamente all'interno di essa sul sacerdozio comune di tutti i fedeli. Infatti, come Origene afferma nella sua omelia sul Levitico, questo discorso, il discorso sul sacerdozio, riguarda tutti noi. Nella medesima omelia Origene, riferendosi al divieto fatto ad Aarone, dopo la morte dei suoi due figli, di entrare nel Sancta Sanctorum in qualunque tempo, così ammonisce i fedeli. Da ciò si dimostra che se uno entra a qualunque ora nel santuario senza la dovuta preparazione, non rivestito degli indumenti pontificali, senza aver preparato le offerte prescritte ed essersi reso Dio propizio, morirà. Questo discorso riguarda tutti noi. Ordina infatti che sappiamo come accedere all'altare di Dio. O non sai che anche a te, cioè a tutta la Chiesa di Dio, al popolo dei credenti, è stato conferito il sacerdozio? Ascolta come Pietro parla dei fedeli, stirpe eletta, dice, regale, sacerdotale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato. Tu dunque hai il sacerdozio perché sei stirpe sacerdotale e perciò devi offrire a Dio il sacrificio. Ma perché tu la possa offrire degnamente hai bisogno di indumenti puri e distinti dagli indumenti comuni agli altri uomini e ti è necessario il fuoco divino. Così, da una parte i fianchi cinti e gli indumenti sacerdotali, vale a dire la purezza e l'onestà della vita. Dall'altra, la lucerna sempre accesa, cioè la fede e la scienza delle scritture, si configurano come le condizioni indispensabili per l'esercizio del sacerdozio universale esige purezza e onestà della vita, fede e scienza delle scritture. A maggior ragione lo sono evidentemente per l'esercizio del sacerdozio ministeriale. Queste condizioni di integra condotta di vita e di accoglienza e di studio della parola stabiliscono una vera e propria gerarchia della santità nel comune sacerdozio dei cristiani. Al vertice di questo cammino di perfezione origine colloca il martirio. Prendiamo la pioggia come una benedizione, si parla molto della siccità, quindi il Signore dà un segno della grazia. Allora, dico, sempre nella nona omelia su Levitico, origine allude al fuoco per l'olocausto, cioè alla fede, alla scienza delle scritture, che mai deve spegnersi sulla anima di chi esercita il sacerdozio. Questo inesausto cammino di perfezione riguarda tutti noi, purché lo sguardo del nostro cuore sia rivolto alla contemplazione della sapienza e della verità che è Gesù Cristo. In una predica sul discorso di Gesù a Nazareth ha detto che nella scrittura c'è scritto che gli sguardi di tutti erano fissi sopra Gesù, e dice: noi nella nostra assemblea dobbiamo fare lo stesso, gli sguardi del nostro cuore siano fissi sul Gesù, così siamo sulla strada giusta e nonostante questa situazione attuale cerchiamo di fissare lo sguardo del nostro cuore su Gesù Cristo, e così siamo sulla strada stretta, sulla strada retta, e andiamo bene avanti verso la vera vita. Grazie.